Pronti? Mamma, ma che prega perché il mondo va più veloce di me. Al suo stereo appaglia per non pensare. Un altro!